Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il racconto dal fronte in Nagorno-Karabakh e poi in Kirghizistan, dove la politica fa un passo indietro e la piazza ne fa due avanti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. We are deeply concerned about the situation in and around Nagorno-Karabakh. We are, of course, watching the situation very carefully. Authorities here very on edge about this situation, saying it could have been a catastrophe had it gone off. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In regia, lo sapete, c'è Valeria Bernardi. Così come sapete bene ormai il numero da comporre per SMS e WhatsApp, domande e commenti sui temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Poi ci sono i social, Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Prosegue il conflitto in Nagorno-Karabakh, la diplomazia non riesce a far sentire la propria voce, invece chi ci sta riuscendo sono i due eserciti che non risparmiano colpo su colpo. In mezzo ci sono soprattutto i civili, vittime e danni sono assolutamente inquantificabili per l'estrema difficoltà con la quale si riescono a reperire informazioni indipendenti e verificabili in maniera neutra da quello che uno stato de facto si sta trasformando in un territorio che viene tirato da una parte e dall'altra. Baku e Yerevan rivendicano il possesso del Nagorno-Karabakh e poi all'orizzonte ci sono i grandi attori che più o meno stanno a guardare, Russia e Turchia. Poi andremo in Kirghizistan, dove vi abbiamo raccontato la tornata elettorale che ha avuto un esito non del tutto scontato. La gente è scesa in piazza, almeno 4.000 manifestanti, soprattutto nella capitale. È stato preso d'assalto a tutti gli effetti l'edificio governativo, è stato liberato l'ex presidente, è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. Cercheremo di capire cosa sta accadendo in un importantissimo stato dell'Asia, appena 6 milioni di abitanti, ma crocevia fondamentale non soltanto per le varie pipeline, le infrastrutture energetiche, ma anche proprio per la vicinanza a Russia e Cina. Ma come ogni giorno, la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier. Il primo dossier che campeggia qui sulla scrivania di Nessun Luogo Lontano è naturalmente, come potete immaginare, quello elettorale statunitense, che continua però a venarsi di strettissima cronaca e strettissima attualità. Lo avete sentito anche dal GR, è stato dimesso Donald Trump dal Walter Reed Medical Center, l'ospedale militare dove era stato ricoverato per curare il coronavirus. Se n'è andato a bordo del Marine One, che è l'elicottero presidenziale, e è rientrato ieri alla Casa Bianca. Una volta sceso dall'elicottero, Trump è salito su quella che è la balconata della residenza e si è tolto la mascherina, ha fatto il saluto militare e poi con un gesto ha salutato i presenti e poi ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video in cui lanciava alcuni messaggi, tra i quali: ho imparato tanto sul coronavirus stando in quel luogo e una cosa è certa, non lasciate che il virus vi domini, non abbiate paura. Batterete il virus perché abbiamo le migliori attrezzature mediche, abbiamo i migliori farmaci, lo batteremo. Dopo questo tweet, peraltro, c'è stata una selva di proteste proprio sul profilo del presidente statunitense, perché gli è stato contestato che nessuno dei cittadini americani ha avuto accesso a ben 20 medici completamente a lui dedicati, a un quello che in gergo tecnico si chiama un medevac, cioè l'elicottero che consente una evacuazione medica e un trasporto dall'ospedale alla Casa Bianca. Nessuno cittadino americano positivo se ne può tranquillamente tornare a casa e lasciare l'ospedale. Trump ha proseguito dicendo: sono andato all'ospedale, non mi sentivo bene, ma dopo due giorni stavo benissimo, al punto che me ne sarei potuto andare. Ha aggiunto che stavo così bene che mi sembrava di avere 20 anni di meno. E poi forse la frase che è stata più contestata dagli analisti e dagli osservatori politici: non lasciate che il virus si impadronisca delle vostre vite, non lasciate che questo accada, siamo il più grande paese del mondo, torniamo a lavorare. Naturalmente anche queste ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che adesso passerà la convalescenza alla Casa Bianca in compagnia della moglie, e da lì continuerà a lavorare almeno secondo i suoi intenti. I critici hanno in realtà postato una serie di video in cui si vede il presidente molto affaticato, farebbe fatica a respirare, qualcuno sussurrava addirittura che avrebbe trattenuto svariati colpi di tosse. Ma al di là di questo è evidente che il presidente ha bisogno di tornare sulla scena politica. Stavo buttando l'occhio alla CNN proprio adesso. Gli ultimi sondaggi commissionati a un istituto di ricerca proprio dal network americano darebbero Biden avanti del 16%, ma lo diciamo sempre, lo ricordiamo anche questa volta, i sondaggi statunitensi ci hanno abituato a cocenti delusioni. Dico cocenti delusioni in senso tecnico-scientifico, e attenzione, nel senso che danno una previsione e poi quella previsione è stata assolutamente smentita. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. Intanto vi do conto di una notizia che ha catturato decisamente la nostra attenzione. Il potente ministro dell'interno del governo di accordo nazionale di Tripoli, siamo quindi in Libia, Fathi Bashagha, ha firmato un memorandum d'intesa con una società che si chiama K2 Intelligence. Per chi è attento al mondo dell'intelligence e della sicurezza internazionale, è una società che è stata fondata da Kroll. Kroll è stato sostanzialmente il personaggio che all'inizio degli anni 70, imprenditore statunitense, ha inventato la sicurezza aziendale. Ora la Kroll è stata venduta e ha rifondato questa K2 Intelligence, che è specializzata in antiterrorismo e anticriminalità, soprattutto in ambito finanziario. Bashagha ha detto che, collaborando con K2 Intelligence, il ministero libico mira a definire una strategia nazionale per combattere il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di denaro, oltre a sviluppare un vero e proprio dipartimento del ministero a Tripoli per affrontare queste decisioni. Secondo Bashagha, questo passo rientra nel quadro della politica generale libica per combattere la corruzione e poi per cercare di rimodernare, ristrutturare in qualche modo quello che è l'apparato amministrativo libico. Ci si permetterà una osservazione. È interessante vedere come gli Stati Uniti, assolutamente defilati dal teatro libico, fatto salva qualche sporadica visita di diplomatici proprio in Libia, riappaiono sotto le vesti totalmente private, cosa che gli Stati Uniti fanno in tanti teatri. Staremo a vedere in cosa si concretizzerà esattamente questo memorandum d'intesa e se funzionari di questa importante società di sicurezza calcheranno prossimamente il suolo libico. E infine un'altra notizia che vi segnalo arriva dalla Siria, anzi ve ne sono due. La prima battuta circa un'ora fa dell'agenzia: 14 persone sarebbero rimaste uccise nell'esplosione di un camion bomba nella città di Al-Bab, un centro controllato dall'esercito turco nel nord-ovest della Siria. Siamo in quella fascia di sicurezza che Erdogan ha voluto creare ormai circa un anno fa. Ne dà notizia l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, lo sapete, è un'organizzazione, una diaspora siriana di base a Londra, che per molto tempo è stata l'unica fonte informativa di ciò che avveniva in Siria. Un'altra notizia però è degna di attenzione e riguarda il campo prigionieri di Al-Hol, che è sostanzialmente uno dei campi più grandi gestiti dalle autorità curde che controllano il nord-est della Siria. Ebbene, le autorità curde hanno deciso di rimandare a casa donne e bambini detenuti nel campo di nazionalità siriana, mentre invece i detenuti di nazionalità straniera rimarranno nel campo stesso. È un segnale molto molto importante, perché forse ricorderete che in quel campo vi sono anche molti familiari, o quantomeno sospetti familiari di sospetti miliziani legati allo Stato Islamico. Staremo a vedere nei prossimi giorni quali saranno le reazioni intanto delle organizzazioni umanitarie e poi anche della comunità internazionale, perché da molti si era detto che il campo di Al-Hol poteva essere una vera e propria bomba orologeria, e a questo punto aprire le porte In questo modo è evidente che è un segnale dei curdi, staremo a vedere destinato a chi. Allora, questi sono i nostri dossier internazionali, sono sostanzialmente i fatti e le notizie sui quali si sono posati gli occhi miei e della redazione, che diventeranno approfondimenti e prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso, con Valeria Bernardi, andiamo al fronte, andiamo in Nagorno-Karabakh, preparatevi perché è la voce di una collega che ha passato alcuni giorni proprio in quello che lei stessa non ha esitato a definire un vero e proprio inferno. Intanto stavo leggendo con grande interesse un messaggio che scrive Claudio da Verona al 349-238-6666, che esprime la sua tristezza. Che tristezza, traspare, trasuda sinistrismo radical chic da ogni vostro intervento quando si parla di Trump. Ma essere un po' super partes non ce la fate proprio, eh. Gentile Claudio, mi dica cosa significa essere super partes se non riferire esattamente quello che il presidente statunitense ha detto nel suo... definito da tanti improvvido intervento dopo questa sua drammatica odissea nell'ospedale militare. Allora, intanto vi faccio sentire immediatamente la voce di Ani Paitian, giornalista armena, reporter di CivilNet. Poche ore fa era ancora a Stepanakert, capitale del Nagorno-Karabakh. Che cosa ci può dire della situazione? Quanto sono stati pesanti i bombardamenti? Quanti i morti? Insomma, sentite la fotografia che ci restituisce la collega. We went to different various kind of villages. We decided back in time, so it was Wednesday. I bombardamenti a Stepanakert sono iniziati domenica 27 settembre, ma noi siamo arrivati martedì e quello stesso giorno hanno attaccato la città durante la notte con un drone. Si sentivano in continuazione le sirene che avvisavano la popolazione di imminenti bombardamenti. L'intensità dei bombardamenti era spaventosa, ma ancora, come posso dire, tollerabile, mentre durante il nostro secondo giorno le bombe hanno cominciato a cadere con maggiore frequenza. Ci rendevamo conto che stavano prendendo di mira luoghi ed edifici strategici, come centri di emergenza e edifici governativi. Giovedì la situazione era ancora abbastanza tranquilla da permettere ai giornalisti di uscire e filmare quello che stava accadendo a Stepanakert o nei villaggi attorno. Ci siamo recati a Martuni, un paese vicino alla città, e lo abbiamo trovato completamente vuoto. Tutti gli abitanti erano stati sfollati perché l'esercito azero aveva già iniziato a colpire con più frequenza i civili in quell'area, usando diverse armi come mortai e droni. Venerdì e sabato la situazione è precipitata. Sabato hanno colpito la centrale elettrica e c'è stato un blackout totale che non ci ha permesso di avere connessione a internet. Lo stesso giorno hanno anche colpito i gasdotti. I bombardamenti sono andati avanti per quasi tutta la notte. Si sono fermati all'improvviso per poi riprendere alle 7:20 e continuare senza sosta per almeno 6 ore. Le sirene hanno suonato per tutto il tempo. Nel nostro rifugio potevamo sentire tutto e capire che i bombardamenti si stavano avvicinando. I missili cadevano così vicini che diverse volte abbiamo detto: è arrivata la fine, moriremo qui. Domenica mattina hanno colpito la nostra zona con razzi e bombe più di 10 volte. They bombed on Sunday morning more than 10 times. Il racconto che ci arriva direttamente dal fronte in Nagorno-Karabakh, la voce di Ani Paitian, giornalista armena, reporter di CivilNet, voce raccolta da Emanuele Giulianelli, giornalista freelance, autore fra l'altro di Karabakh, la squadra senza città, la conquista dell'Europa, un viaggio nel quale, attraverso la lente dello sport, la lente calcistica, si analizza questo stato de facto, appunto il Nagorno-Karabakh, che ancora una volta arriva e viene messo sotto i riflettori, purtroppo, di una cronaca intrisa di sangue. Emanuele, buongiorno, ben ritrovato qui nel suo luogo lontano. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora, sei riuscito a raggiungere la collega sostanzialmente appena di ritorno dalla linea del fronte? Quello che proponiamo ai nostri ascoltatori è un vero e proprio viaggio in Nagorno-Karabakh per anche restituirvi tutta la drammaticità di un conflitto, lo ripetiamo, che è venato da tanti elementi che stanno inquinando il conflitto, su tutti ovviamente, entrambe le parti se lo rimbalzano, si stanno colpendo obiettivi civili. Seconda questione è una guerra di propaganda che sta raggiungendo livelli altamente preoccupanti, e poi Emanuele ci racconterà qualche caso particolarmente significativo. E poi ci sono gli attori, quelli, i pesi massimi della grande politica internazionale, che più o meno stanno alla finestra. Peraltro Antonio Talia mi segnala proprio in questo esatto istante che l'ANSA riprende un'agenzia di Interfax che dice, riporta le parole del capo dei servizi segreti stranieri russi Sergei Naryshkin: il sostegno aperto e inequivocabile della Turchia all'Azerbaigian è un fattore fondamentalmente nuovo che influenza l'attuale escalation di violenza nel Nagorno Karabakh. E questa è una presa di posizione molto molto sera, molto netta e precisa, e staremo a vedere se è il preludio a una mossa da parte di Mosca. Emanuele Giulianelli, facciamo dire a Ani Paitian, giornalista di CivilNet, qual è la situazione, quali sono stati i danni nella capitale del Nagorno-Karabakh, e poi proviamo a aprire il capitolo dell'analisi che preannuncio già agli ascoltatori e alle ascoltatrici sarà particolarmente difficoltoso. Sentiamo il conteggio dei danni nella parole della collega armena. In relazione ai danni, quello che posso dire è che l'intera situazione è molto caotica. Le nostre case sono distrutte e ci sono molti morti e feriti. I rifugi antibomba sono delle semplici cantine, quindi se un razzo ti colpisce, non ci sono molte possibilità di salvarsi, anche se si è al riparo in uno scantinato. L'intera città è in ginocchio. È la prima volta che sperimento gli effetti di una guerra in prima persona. Certo, ho visto i film e le immagini della televisione su Siria, Iraq e Afghanistan, ma per la prima volta sto vivendo un conflitto sulla mia pelle, e quando ho visto Stepanakert ho pensato che assomigliasse tantissimo a delle foto che avevo visto di quegli scenari di guerra. Le persone stanno cercando di lasciare la città velocemente, non hanno niente. Molto spesso scappano con il solo pigiama addosso, cercando di andare il più lontano possibile per salvarsi la vita. La città è quindi vuota e distrutta. Non ho altre parole per descriverla. È un caos totale. È tutto in rovina. Stepanakert, che un tempo era bellissima, ora è un ammasso di macerie. Stepanakert, that used to be wonderful and beautiful, became a ruin for now. Il drammatico racconto qui è nel suo luogo lontano di Ani Paitian, giornalista armena, reporter di CivilNet, raggiunta nella tarda serata di ieri da Emanuele Giulianelli, che è nostro ospite, è un giornalista freelance, segue quella zona da parecchio tempo, ne ha raccontato soprattutto le venature sportive, ma senza tralasciare evidentemente gli aspetti prettamente politici, che sono quelli che proveremo ad affrontare adesso. La collega Emanuele diceva situazione altamente caotica. Ho una sensazione, però sconfessami pure se mi sbaglio, ho la sensazione che, dicevo, la diplomazia, magari quella turca e quella russa, parlerà solo dopo un consolidamento delle conquiste. Sei d'accordo? Ma purtroppo, vorrei dire purtroppo, sono d'accordo con te, perché anche nell'ultimo messaggio che Aliyev ha diramato l'altra sera a tutta la nazione, il presidente dell'Azerbaigian, è stato molto chiaro. E di fatto è ciò che ha confermato anche Nikol Pashinyan, che è il premier armeno, cioè le condizioni per il cessato il fuoco a questo momento, in questo momento non ci sono. Il cessato il fuoco è prematuro, perché sì, in questo momento ancora nessuna delle due parti si può presentare a un tavolo di trattative in una posizione di vantaggio, perché le posizioni non sono ancora consolidate. Bisogna pensare che molte città della zona del Nagorno-Karabakh e delle famose sette province che hanno annesso a Nagorno-Karabakh hanno cambiato più volte bandiera in questi giorni, quindi non c'è a questo punto ancora una situazione stabile tale da far sì che le due parti, ma anzi le tre parti, perché bisogna, sì, non bisogna scordarci che c'è l'Armenia, c'è l'Azerbaigian, c'è l'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh, certo, perché si possono sedere a un tavolo, cosa che successe nel 94 con gli accordi di Bishkek, in cui appunto tutte e tre le parti, per un capolavoro diplomatico dell'italiano Mario Raffaelli, riuscirono a sedersi a un tavolo. Ma adesso le condizioni purtroppo ancora non ci sono. L'analisi e il racconto di Emanuele Giulianelli, giornalista freelance, autore di Karabakh, la squadra senza città, la conquista dell'Europa. Torniamo a quella che è la voce di Ani Paitian, giornalista armena, reporter di CivilNet, che lo stesso Emanuele Giulianelli ha sentito nella tarda serata di ieri. Avete sentito anche il tono particolarmente drammatico della collega, di ritorno da una linea del fronte che, è vero, ci si può lavorare, però quando il livello di rischio è così alto, allora a quel punto anche il reporter di razza, è abituato a consumare gli scarponi, fa un passo indietro. Cosa che sta facendo, ha fatto da tempo, anche la politica. A lei Emanuele Giulianelli ha chiesto se la collega armena creda in una soluzione politica, e se sì, di che tipo. Sentite. Well, the only way I think to stop this, at least, is, l'unico modo per fermare tutto questo credo che sia una soluzione politica. Turchia e Russia dovrebbero imporre a entrambe le parti in lotta un cessate il fuoco. Ma la Turchia non ha nessuna intenzione di fermare tutto ciò, mentre la Russia per ora rimane in silenzio. Questo significa che la responsabilità di fermare le violenze ricade su di noi. In Armenia si sta pensando di riconoscere uno Stato nella regione indipendente sia da Yerevan che da Baku, e questo ovviamente è inaccettabile per l'Azerbaigian. Il riconoscimento di uno Stato sovrano nel Nagorno-Karabakh creerebbe dei problemi, ma forse potrebbe riuscire a fermare l'Azerbaigian. Ad essere sincera, non ho proprio idea su cosa si potrebbe fare. Sinceramente non vedo nessuna soluzione dal punto di vista politico, tranne un noi contro loro, la nostra vittoria o la loro vittoria. Non vedo nessun'altra soluzione. Our victory or their victory. I don't see any other solution. Questa è la voce di Ani Paitian, lo ricordo fresca, lo dico con amarezza, si fa per dire, dal fronte in Nagorno-Karabakh. Lei scrive per CivilNet. Intanto un po' di ascoltatori mi sollecitano su quella che è la posizione iraniana, e ne dà conto proprio un'agenzia che è stata battuta pochissimo tempo fa. L'Iran sottolinea la preservazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaigian, il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, e chiede all'Armenia di ritirare le sue forze dalle terre occupate dell'Azerbaigian dopo giorni di conflitto militare sulla regione contesa del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei, citato dall'agenzia di Stato IRNA. Non c'è una soluzione militare al conflitto, ogni interferenza di terze parti risulterà non costruttiva e dannosa, e così ha concluso il ministro degli esteri, chiedendo sia a Yerevan che a Baku di far tacere le armi. Dicevo, posizioni, prese di posizione piuttosto pallide, per adesso non si va al di là di qualche dichiarazione alla quale, ai noi, siamo abituati in situazioni di questo tipo. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come le borse stanno reagendo in primis al dossier statunitense, e poi torno con Emanuele Giulianelli e ancora le voci dal fronte del Nagorno-Karabakh. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il Nagorno-Karabakh sotto i riflettori, siamo al decimo giorno di guerra a tutti gli effetti, con attori esterni che a vario modo allungano le mani su quel territorio, un tempo conteso, poi stato de facto, adesso nuovamente conteso. Al Jazeera riprende la voce e le dichiarazioni del presidente siriano Bashar al-Assad, che conferma che combattenti siriani sono sul teatro di guerra. Si riferisce naturalmente a siriani ottomani che sono stati reclutati dalla Turchia e mandati sul fronte del Nagorno-Karabakh. Torno da Emanuele Giulianelli, giornalista, freelance, autore, lo ricordo ancora una volta, del libro Karabakh, la squadra senza città, la conquista dell'Europa, Turchia e Russia. E mi allaccio anche a una domanda di un ascoltatore o un'ascoltatrice, nuovamente sul fronte, di fronte sul fronte, con una Turchia sicuramente molto più esposta in questo caso. Che cosa deve accadere per far intervenire Mosca in questo complesso mosaico? Allora, Mosca ci tiene molto al futuro della regione e ci tiene molto a poter essere il peacemaker, a poter svolgere il ruolo di mediazione una volta che le parti in causa si saranno convinte a sedersi attorno a un tavolo. Sì. Perciò formalmente, anche se di fatto Mosca è pienamente nel conflitto, perché in un modo o nell'altro, come avete spiegato tante volte, è connessa sia con l'Armenia e sia con l'Azerbaigian, al momento si sta tenendo fuori. E paradossalmente, se c'è un solo fattore che unisce un pochino le intenzioni di Baku, di Yerevan e di Stepanakert, è proprio il fatto che nessuno delle tre in realtà vorrebbe Mosca come peacemaker, perché come si sa in tutta la regione del Caucaso e in tante altre parti, quando Mosca arriva a boots on the ground, poi è difficile toglierli, è difficile farli andare via dal territorio. Sì. Tu prima parlavi anche dell'Iran. L'Iran è un'altra potenza coinvolta nella situazione, che si è offerta di aprire dei tavoli di pace, ma l'Iran in questo momento deve anche stare, come dire, attenta a quello che succede sul campo, perché pare che circa 2 dozzine di missili sono arrivati già in territorio iraniano, e quindi l'Iran ha già schierato comunque alcune truppe sia al confine con l'Armenia sia al confine con l'Azerbaigian per difendersi da eventuali colpi che potrebbero arrivare anche inavvertitamente nell'escalation del conflitto, ecco. E nelle parole di Emanuele Giulianelli, ancora una volta, il rischio all'orizzonte è che le grandi potenze che si affacciano in quel piccolo relativamente teatro di guerra a un certo punto vengono inevitabilmente coinvolte, volenti o nolenti, in questo conflitto. Io intanto ringrazio tantissimo Emanuele Giulianelli, giornalista freelance, per essere stato con noi. Emanuele, adesso faccio sentire un altro stralcio della lunga intervista che hai realizzato con Ani Paitian, giornalista armena di CivilNet, di ritorno dal fronte al Nagorno-Karabakh. Intanto però ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Buona giornata Emanuele, e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata, ciao. In tanti si chiedono, ma perché l'Armenia allora non mette la quinta e riconosce l'indipendenza del Nagorno-Karabakh? Sentite cosa dice Ani Paitian. If Armenia did not recognize the independence of L'Armenia non riconosce l'indipendenza del Nagorno-Karabakh, perché ciò significherebbe che non c'è nessun modo per trovare una soluzione attraverso il dialogo con l'Azerbaigian. Nel frattempo, durante questi 30 anni, l'Armenia ha sempre pensato che sarebbe stato possibile trovare una soluzione al conflitto attraverso il dialogo. Per questo Erevan non ha dichiarato l'indipendenza del Nagorno-Karabakh, ma data l'attuale situazione, l'Armenia sta considerando l'idea di uno Stato indipendente, la Repubblica dell'Artsakh. Se ciò accadesse, sarebbe la dimostrazione dell'assenza di ogni possibilità di dialogo e quindi avverrebbe indirettamente la soluzione militare. Questa è la voce di Ani Paitian, giornalista armena CivilNet, fresca dal fronte del Nagorno-Karabakh. Abbiamo citato quelle che sono le volontà e anche le velleità, forse politiche, dei tre attori in gioco. Ci sono gli armeni, ci sono i karabachi e ci sono gli azeri. Ma chi li guida? E ascoltate bene, drizzate le orecchie, perché il premier, ex premier, presidente del Nagorno-Karabakh, è uno che a un certo punto ha lasciato la sua poltrona, direbbe qualcuno in Italia. E ha fatto che cosa? Sentite. Sulla scacchiera del conflitto in Nagorno-Karabakh sono due i giocatori contrapposti. Uno è Ilham Aliyev, che è subentrato come presidente dell'Azerbaigian al padre nel 2003. Quando suo padre morì, Aliyev era già primo ministro, vicepresidente della compagnia petrolifera pubblica e leader del New Azerbaijan Party. Quando nel 2003 vinse le elezioni, la comunità internazionale fu molto critica e addusse che Aliyev aveva condotto una campagna all'insegna dell'intimidazione, della violenza e dell'asservimento dei media. We don't say that the elections are very free of problems, and it cannot be in any country, because the process that involves millions of people. Dopo il suo primo mandato, nel 2008 Aliyev indisse un referendum per l'abolizione della legge che vietava al presidente di servire il suo paese per più di due mandati. Per Aliyev è scacco matto. La mossa politica indebolisce l'opposizione e gli consente di mantenere il potere fino a oggi. Dalla parte opposta della scacchiera, Armen Sarkissian, laureato in fisica e matematica e politico di lunga data, primo ministro dell'Armenia tra il 96 e il 97, è stato ambasciatore nel Regno Unito dal 1998 al 2018 e capo della missione della Repubblica Armena nell'Unione Europea e nella NATO dal 95 al 96. Nel marzo del 2018, unico candidato e con il sostegno del Partito Repubblicano e del presidente uscente Serzh Sargsyan, con il 90% dei voti, Sarkissian è stato scelto dal Parlamento per assumere la guida del paese. Politics or diplomacy is a craft, and you have to learn. You have to learn not only at school, but with a good master. And if you're lucky, you have a good master, then you learn the craft, and some craftsmen become great artists. La candidatura di Sarkissian, il presidente intellettuale, è stata a lungo osteggiata dalle forze di opposizione, che hanno intravisto nel cambiamento politico armeno e nell'elezione del nuovo presidente solo uno scenario di facciata, entro al quale si nascondono i veri fautori della politica, Serzh Sargsyan e il suo entourage. E poi, nel bel mezzo della scacchiera, c'è Araik Arutyunyan, 46 anni, già primo ministro, presidente del Nagorno-Karabakh, che dalla sua elezione del 22 aprile scorso si è trovato due pesantissimi dossier sulla scrivania: la pandemia da Covid-19 e appunto i rapporti con Azerbaijan e Armenia. Հիմնականում առավոտյան ժամը 7:00-ին պատրաստ էր պատերազմի եւ սկսվեց ժամը 7-ի կողմերը մոտորապես, հստակ ժամերը չեմ ուզում ասել. Gli insediamenti civili, compresa la capitale, Stepanakert, sono stati presi di mira. Pertanto sto per recarmi con le forze speciali in prima linea per condurre la mia battaglia, poiché sarò più utile in prima linea che in retroguardia, diceva in un videomessaggio tre giorni fa. Dato per seriamente ferito dopo un bombardamento a zero, ha fatto sapere di essere vivo e vegeto. E così abbiamo fotografato anche quella che è la leadership dei tre paesi, uno stato de facto, che sono al centro della violentissima contesa che dura da 10 giorni. Facciamo una piccola pausa, andiamo sulle strade italiane e poi apriremo una brevissima parentesi con la voce di una collega azera e poi faremo il punto sul Kirghizistan. Già ho idea che qualcuno di voi scriverà: ma che ce ne importa del Kirghizistan? E invece è molto, molto importante. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Nessun luogo è lontano. You take a mortal man and put him in control. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati. Questa è l'ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Dopo un lungo approfondimento su Nagorno-Karabakh, tra poco vi parlerò del Kirghizistan, non prima di avervi fatto sentire la voce di Kaja Ismailova, giornalista investigativa azera, collabora con l'agenzia di stampa locale Turan e altri media di opposizione. Lo avete sentito in questi giorni, in queste puntate, in Nessun luogo, la propaganda gioca un ruolo importantissimo e benefico. In queste ore circolano video che stanno indignando l'opinione pubblica azera. Quei video mostrano atrocità commesse da soldati armeni sui cadaveri dei soldati azeri. Cosa sappiamo di questi video? Sono autentici? Sentite cosa dice la giornalista investigativa. Questi video sono stati diffusi la notte scorsa e da quello che abbiamo appreso finora si tratta di riprese effettuate nel 2016 durante i 4 giorni di escalation militare. Sfortunatamente queste immagini non erano state diffuse e non avevano catturato l'attenzione dei media 4 anni fa. E adesso che sono stati diffusi da alcuni profili Twitter e Facebook, molte persone in Azerbaigian sostengono che siano stati pubblicati per minacciare e impaurire la popolazione azera, per abbattere il morale, insomma, ma non credo che questa sia la parte fondamentale della storia. La parte importante riguarda come questi crimini di guerra non siano mai stati discussi dai media e come abbiano fatto a non attirare l'attenzione dei sistemi penali internazionali che perseguono i reati commessi in un conflitto. Ma il video è autentico ed è stato girato nell'aprile 2016. It was filmed in 2016, April. E se quel video girato nell'aprile 2016 fosse stato in qualche modo una tragica e cruenta profezia di quello che sta accadendo in questi giorni? Si stanno commettendo crimini di guerra? Dalle nostre fonti sembra proprio di sì. Bombardamenti indiscriminati di civili. Sentite cosa ne pensa Kaja Ismailova, giornalista azera investigativa. There are other facts to talk about. Ci sono altri atti di cui bisogna discutere che possono essere definiti crimini di guerra. Sì, uno di questi è attribuibile a entrambe le parti, perché entrambe le parti, sia azeri che armeni, stanno prendendo di mira più volte aree abitate dalla popolazione civile. Il problema è che la questione da discutere in alcuni casi è anche lo schieramento delle forze militari all'attacco in zone residenziali, che è quello che sta avvenendo a Stepanakert, la capitale del Nagorno-Karabakh, da quello che mi risulta. Di sicuro l'attacco contro le aree residenziali è male, ma la domanda da porsi è anche perché sono state stabilite postazioni militari nelle aree abitate dai civili. Inoltre, da 2 giorni, Ganja, la seconda città dell'Azerbaigian, molto lontana dalla zona di guerra, è sotto bombardamento da parte delle forze armene e anche questi sono crimini di guerra. Le forze militari armene stanno colpendo zone residenziali e siti industriali e qualcuno dovrebbe convincere gli armeni a interrompere questi bombardamenti. Someone should convince Armenia to stop doing that. La voce e il commento di Kaja Ismailova, giornalista investigativa azera. Torneremo ai noi sul dossier del Nagorno-Karabakh, perché non v'è dubbio alcuno che la diplomazia in questo momento si stia dimostrando impotente. Forse si aspetta la cristallizzazione delle posizioni sul fronte e quei villaggi, quelle parti di territorio riconquistati dall'Azerbaigian, forse saranno il preludio a un processo di pace. Questo è quello che accade nel Caucaso. Adesso ci spostiamo un po' più est, andiamo in Kirghizistan. Questa è la piazza kirghiza. Almeno 4.000 persone nella capitale hanno contestato la tornata elettorale che avevamo provato a raccontarvi. Questo piccolo paese, 6 milioni di abitanti, importantissimo crocevia confinante con Russia e con Cina, e che evidentemente è anche in preda degli appetiti delle due potenze. Lunedì grandi proteste, scontri tra polizia e manifestanti, alcuni poliziotti si sono uniti ai manifestanti stessi, poi i palazzi governativi sono stati presi d'assalto, la commissione elettorale ha annullato il voto. Bilancio di tutto ciò che potremmo riassumere con: la politica fa un passo indietro, la piazza ne fa 2 avanti, almeno 600 feriti e un morto. E intanto la politica che fa 2 passi avanti va a riesumare l'ex presidente kirghizo Atambayev, che era stato un imputato chiave in un caso e per questo imprigionato negli scontri in un villaggio nel 7-8 agosto del 2019. Era in quel momento agli arresti domiciliari e poi liberato. Una storia, insomma, che miscela quella che è la politica locale con gli ultimi eventi di cronaca. Antonio Tali ha raggiunto Erika Marat, che è professore associato di studi centrasiatici al College of International Security Affairs, Dipartimento della Difesa statunitense. In un tweet, la studiosa ha dichiarato che questa rivolta in Kirghizistan è molto diversa dai drammatici stravolgimenti avvenuti nel paese negli ultimi anni. Ci riferiamo al 2005-2010, dove le transizioni di potere non sono state mai pacifiche. Qual è la differenza? Sentite. So yeah, the regime changes in Kyrgyzstan in 2005, 2010, and now in October 2020, they were really different. And the way people sono molto diversi, come sentite, lo ammette. La maniera in cui la gente si è organizzata, gli obiettivi perseguiti, quello che è successo immediatamente dopo, è drasticamente diverso. In superficie, ammette, sembra tutto uguale. Una folla vastissima che si raduna e assalta il palazzo del governo, ma di fatto nel 2005 si trattava principalmente di leader dell'opposizione che avevano convinto i loro sostenitori a esautorare il presidente Nakayev. Nel 2010 si trattava di una protesta più organica, formata principalmente da residenti della capitale, Bishkek. Una protesta priva di un vero leader, un'azione spontanea e collettiva. E anche in quel caso i manifestanti volevano abbattere un presidente, Nakayev, personaggio molto corrotto e autore di politiche autoritarie. Adesso, nel 2020, si tratta di entrambi gli aspetti, leader politici ma anche semplici elettori, che si sono radunati nel centro della capitale per opporsi ai risultati delle elezioni parlamentari. Queste elezioni, continua Erika Marat, sono state palesemente truccate a favore dei partiti già al governo. Le richieste dei manifestanti erano quelle di cancellare i risultati. E poi naturalmente vi abbiamo dato conto dell'ultimissima mossa alla commissione elettorale che ha annullato proprio i risultati in questo piccolo paese dove ci sono vastissimi giacimenti di oro, ricchezze che si rifanno al gas e al petrolio, ma soprattutto è un crocevia incredibile nell'Asia che desta e sollecita tanti appetiti. La situazione politica sembra ripercorrere un po' quella degli ultimi anni. C'è grande turbolenza e c'è una piazza sempre pronta a scendere appunto per le strade e a rivendicare maggiore trasparenza e minore corruzione da parte dell'elite politica. Allora, 16:55, 15 secondi e per una volta, senza correre, lanciamo i titoli di coda. You're fired. You're fired. You're fired. E un saluto e un ringraziamento va a tutti gli ascoltatori, soprattutto a un ascoltatore che ha coniato un nuovo epiteto che mi fa impazzire, perché dopo Mussul Meci, che mi ha accompagnato per tanti mesi, c'è Falso Meci ed è notevole. Questo è da segnare. Un grazie alla squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è a domani. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.